Martedì 1 aprile 2025, ciao a tutti, ben trovati, ben trovate, ben sintonizzate e salutiamo Likewise e questa è Note Cose Città, questa è Radio Onda Rossa. Un evergreen, tutti i nostri contatti 0649 www.ondarossa.info. Da oggi è disponibile anche il nuovo radioabbonamento. Compra un reattore nucleare a Radio Onda Rossa perché veramente ne abbiamo bisogno. Tutte le informazioni su questa campagna le trovate sui social, qui intanto abbiamo fatto spazio, fiduciosi che presto possiamo realizzare il nostro sogno. Buonasera Fabio. No, non t'avevo aperto il microfono, era un pesce d'aprile, quindi risaluta di nuovo. Ciao a tutti e ciao Ale. Che simpa. Allora, oggi 1 aprile, ma di che vogliamo parlare oggi? Oggi la nostra puntata, come avete già immaginato, è dedicata agli scherzi, ovviamente agli scherzi nel mondo della musica, e praticamente se non esclusivamente nel mondo del rock, anche se abbiamo un breve inciso anche su una musica molto più colta della musica rock. Prima di cominciare la puntata, per chi fosse curioso, per chi non sapesse, qualche informazione sul perché il primo aprile è il giorno degli scherzi, diciamo così, e diciamo che in età moderna e contemporanea e l'origine sembra sia legato al fatto che in Francia nella seconda metà del Cinquecento ci sono due episodi che fanno nascere questa tradizione, diciamo così. Più che episodi, si tratta dell'editto di Roussillon del 1564 e poi dell'applicazione del calendario gregoriano nel 1582. Appunto, questa applicazione del calendario gregoriano sposta le celebrazioni per l'inizio dell'anno dal 25 marzo, come era con il calendario giuliano, al 1 gennaio, come tuttora oggi. E sembra che dopo l'introduzione del nuovo calendario in Francia chi continuava a festeggiare la fine dell'anno durante l'ultima settimana di marzo veniva considerato uno stupido, diciamo in maniera un po' più carina, e quindi per questo degno di essere oggetto di scherzi. In realtà sappiamo, avendo letto in rete un po' di articoli, un po' di approfondimenti, abbiamo scoperto Ale che il primo aprile come giorno degli scherzi ha un collegamento con il primo giorno dell'anno molto più antico rispetto al XVI secolo, a quello che vi ho raccontato. In Iran, per esempio, all'epoca era la Persia, il primo giorno del nuovo anno cade ancora oggi sempre tra il primo e il 2 aprile, e fare gli scherzi durante queste festività era una tradizione che appunto di cui c'è traccia anche molti secoli prima di Cristo. Poi per quanto riguarda noi in senso stretto, noi romani, insomma, nell'antica Roma si festeggiavano negli ultimi giorni dell'anno i Saturnalia, che era una festa di diversi giorni collegata al culto del sole, in cui, per fare un esempio, temporaneamente appunto durante queste festività gli schiavi si sedevano a tavola per essere serviti dai padroni. Insomma, al di là delle considerazioni su questo aspetto, diciamo che l'atmosfera era appunto di festa, di scherzo, di gioco. Era addirittura consentito in quei giorni in antica Roma il gioco d'azzardo, che invece era solitamente vietato. Insomma, queste sono le origini storiche del pesce d'aprile, in realtà del primo aprile, perché il pesce d'aprile viene chiamato così soltanto in Francia. In Italia, secondo l'Enciclopedia Britannica, il motivo è molto semplice: il legame tra la stupidità di chi viene preso in mira e cade negli scherzi e la facilità con cui alcuni pesci ti fanno prendere dall'amo e dall'esca attaccata all'amo. Adesso, fatta, dicevo, questa breve premessa di natura storica, partiamo proprio da un primo aprile. In questo caso è un primo aprile di 16 anni fa. La protagonista di questo scherzo è la cantante artista islandese che tutti voi conoscete, che noi almeno amiamo, che si chiama Björk. Björk nel 2009, in questo giorno, appunto nel primo aprile, scrisse sul suo sito, quando qualcuno ancora andava a controllare i siti, le homepage dei siti, cosa che diciamo è abbastanza passata di moda, ecco, lei scrisse sul sito che sarebbe diventata la cantante in una reunion delle Zeppelin, la nuova frontman, sarebbe diventata lei la nuova voce delle Zeppelin, perché Robert Plant non aveva appunto accettato, non aveva, aveva deciso di non far parte di questa reunion, quindi lei scrisse sul sito che sarebbe diventata la nuova cantante per la tournée mondiale che da lì a breve sarebbe partita, che però grazie su sua indicazione lei avrebbe cantato soltanto brani dei primi quattro album delle Zeppelin. E c'era, immaginiamo, adesso io non l'ho visto in diretta questo scherzo, ne l'ho letto soltanto dopo, comunque clicca qui per leggere le date, e quando il malcapitato di turno ha cliccato, il fan di Björk ha cliccato sul link, in realtà si apriva una pagina e diceva: sei uno scemo, sei cascato, è un pesce d'aprile. E però il legame tra le Zeppelin e Björk realmente c'è, e evidentemente lei insomma, avendo dei bei gusti, ha amato le Zeppelin da non soltanto da ragazza, probabilmente li ama ancora adesso, tant'è che su Post, il suo secondo album, se non vado errato, uscito nel 1995, contiene una canzone bellissima che ascolteremo, che si intitola Army of Me, che contiene un sample di una canzone davvero tratta da uno dei primi quattro album delle Zeppelin, in questo caso l'album delle Zeppelin 4, la canzone When the Leaves Break, quella che ci stiamo ascoltando in quello sottofondo. Che abbiamo appunto in sottofondo, l'avrete riconosciuta. Noi ovviamente partiamo da Björk e partiamo da Army of Me. Complain once more, you meet them, I'm your blue. E lei era naturalmente Björk, Army of Me, ad aprire questa puntata di Note di questa città dedicata agli scherzi. Andiamo con uno scherzo, un pesce d'aprile un po' più recente, visto che questo apparteneva a 16 anni fa, giusto fa? Giusto. E invece questo è stato fatto lo scorso anno e... Ma prima di raccontarvelo, immagino che tutti e tutte sapete che Toya e suo marito Robert Fripp, il chitarrista e fondatore dei King Crimson, ormai da qualche anno credo abbiano iniziato nell'anno del Covid e ci deliziano sul loro canale YouTube con il loro Sunday Lunch. Per chi non li avesse mai visti, a parte andateveli a vedere perché sono molto molto divertenti, sono dei brevi video, circa un minuto e mezzo, due, in cui la coppia interpreta cover delle famose canzoni, Fripp alla chitarra e Toya alla voce. Spesso sono mascherati, fanno delle scenette, sono... è veramente molto divertente. Lo scorso primo aprile, appunto, Fripp ha decisamente alzato l'asticella e vi ricordo che il primo aprile del 2024 il signor Robert Fripp aveva 77 anni e infatti è apparso in un video in cui era seduto completamente nudo sulle scale, in gran forma sulle scale presumibilmente di casa sua. Aveva in mezzo alle gambe la Gibson, il corpo della chitarra gli copriva le parti intime, mentre Robert Fripp accarezzava in maniera molto sexy e sensuale il manico della chitarra, il tutto accompagnato da uno sguardo languido. Sul sexy e sensuale ci avrei da ridire. Assolutamente sì, con la lingua che veniva passata sulle labbra, insomma, veramente magnifico. E tutto questo per promuovere l'imminente apertura della sua pagina OnlyFans. Nel video poi appariva anche alla fine il link della pagina, link che però ovviamente cliccando ci rimandava a una pagina di errore, e quindi noi non potevamo non omaggiarlo, Robertino Fripp. Ma non ci sentiamo un brano dei King Crimson, però, perché ce l'ascoltiamo in quanto è stato ospite in un disco di esordio di un altro grande artista, che tra l'altro è la prima volta che passiamo a Note Cose Città. Non vedevi l'ora di dirlo. Non vedevo l'ora, che risponde al nome di Brian Eno. Il suo album di esordio si chiamava Here Come the Worms Jets. In un certo senso andiamo un po' a forzare, troviamo anche uno scherzo all'interno di questo album, perché ci sono numerosi ospiti che Brian Eno ha voluto mettere insieme perché li riteneva incompatibili tra loro, quindi voleva divertirsi lui stesso a vedere cosa sarebbe successo. O ancora Brian Eno si diverte a imitare la voce di qualche ex collega, vedi alla voce Brian Ferry, ex Roxy Music insieme a lui, o quando si metteva a ballare e a pronunciare sillabe senza senso per spingere i musicisti durante le session a suonare seguendo il suo ritmo. E non ultimo poi il nonsense dei testi, che nascono poi da associazioni di idee o che spesso hanno un dark humor. Era il 1974, per tornare a Robert Fripp nella sua, diciamo, nella musica che presta a Brian Eno, qui non c'è nessuno scherzo, anzi la sua partecipazione sul brano Babies on Fire. Ho letto una recensione per andarmi a cercare qualche informazione e c'è questa che dice: Robert Fripp ha realizzato l'unico assolo di chitarra su Baby of Fire di cui avrete mai bisogno. Lui è Brian Eno, Robert Fripp alla chitarra, Baby on Fire. Questa è Note Cose Città. Baby's on fire. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire, and all the laughing boys are binging, waiting for photos. Oh, the plot is so bewitching. Rescuers, row, row, do your best to change the subject. Assistance to the object. Photographer, snip, snap. Take your time, she's only burning. This kind of experience is necessary for her learning. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot star. Babies been reduced to. approfitto di quello che dicevi prima, no, Ale, per farci un po' belli, perché Brianino è ovviamente un po' un pallino di Ale. In 7 anni ormai che facciamo Note Cose Città non l'avevamo mai trasmesso, abbiamo da poco finito di completare il nostro archivio, abbiamo ricostruito tutte le canzoni che abbiamo passato in questi anni, sono 170 ore, quasi 171 ore di musica. Ovviamente tra queste 171 ore adesso diventeranno un po' di più, adesso finalmente c'è, grazie a Robert Fripp, c'è anche Brianino. Adesso questo... è rimasto Marvin Gaye e poi... Diciamo, no, ma c'è qualche altro nome grosso, adesso mi sta sfuggendo. Ecco, Marvin Gaye mi sembra assurdo che non abbiamo mai passato. Abbiamo passato cover di pezzi suoi, probabilmente sì, ma non mai l'originale. Comunque, senti, approfitto. Hai detto anche il fatto che avremmo fatto una piccola, diciamo, appendice su quantomeno la musica colta. Non ce l'ascoltiamo, però vale la pena comunque dire che lo scherzo è anche un tipo di composizione nella musica classica, composizione risalente al XVII secolo, inizialmente in forma vocale, poi ha avuto in forma vocale e di carattere popolaresco, poi è diventato in forma strumentale, molto simile al capriccio nell'Ottocento, poi indicava anche delle composizioni pianistiche a sé stanti per poi essere parte, anche diventare parte di sinfonie, a creare una inconfondibile fisionomia allo scherzo che diventerà poi un modello per i compositori che verranno, è Ludwig van Beethoven. Ma nella musica classica che insomma ha quest'aurea un po' di essere quasi sacra, molto seria, cioè i compositori in passato si sono anche divertiti a fare, chiamiamoli dissing per utilizzare un gergo più moderno, tra questi forse uno dei più divertenti è quello che fece Rossini, in cui si mise a scrivere un brano nello stile di Offenbach, che era un compositore che aveva anche una fama di essere uno che portava un po' sfortuna, quindi lui scrive questo brano e trascrisse anche la diteggiatura che bisognava utilizzare sia per la mano sinistra che per la mano destra, utilizzando soltanto il mignolo e l'indice, quindi in pratica facendo in entrambi le mani le corna. E questa era una piccola curiosità. Poi c'è Satie, che era un altro che si divertiva a prendere in giro Clementi, Chopin, Beethoven, eccetera eccetera. Ma noi torniamo alla nostra musica pop, torniamo alla nostra comfort zone, torniamo nel rock. Prima Brianino e Robert Fripp, eravamo nel 74, torniamo qualche anno indietro, siamo 5 anni indietro, siamo nel 69. Una delle, forse ancora oggi, forse la rivista musicale più celebre si chiama Rolling Stone, all'epoca era caporedattore di Rolling Stone, soprattutto si occupava delle recensioni, forse il più grande giornalista musicale vivente, che si chiama Greil Marcus. Beh, da Greil Marcus a Selvaggio Lucarelli il passo è abbastanza breve, in effetti, ma adesso non andiamo fuori tema. È il 69, a Greil Marcus arriva l'ennesimo vinile o cassetta, adesso non lo sappiamo, l'ennesimo bootleg, l'ennesimo supergruppo. I supergruppi, ovviamente la definizione la conoscete, erano quelle band che ancora oggi mettono insieme i componenti famosi di altre band. E la tradizione del rock nasce nel 66 con i Cream, e da lì in poi è stata un'esplosione talmente feroce che Greil Marcus a un certo punto, visto in tante di queste occasioni c'era la paraculaggine, era sempre dietro l'angolo, Marcus si stanca non sappiamo qual era l'album in oggetto di questo appunto ennesimo supergruppo, di questo ennesimo bootleg, e decide di fare uno scherzo, insomma di inventarsi, si inventa un album, si inventa il nome di un gruppo, il nome del gruppo è The Masked Marauders, i predoni mascherati, praticamente un gruppo prodotto da Al Kooper, e Al Kooper il nome non è casuale, lo stiamo sentendo sotto. Al Kooper insieme a Mike Bloomfield, insieme a Steven Stills, era parte di un super gruppo che non aveva nome, erano loro tre i nomi, che però hanno dato alle stampe un album magnifico che stiamo appunto sentendo in sottofondo, che si chiama Super Session, e probabilmente Super Band, Super Group, insomma probabilmente nasce anche da questo album che ebbe un successo incredibile. Insomma, questo progetto inventato da Greil Marcus aveva Al Kooper come produttore e come musicisti Mick Jagger, John Lennon, Bob Dylan, Paul McCartney e qualche altro, me lo dimentico, diciamo che basterebbero questi primi quattro nomi. Ovviamente una volta uscito Rolling Stone non c'era Google, non c'era internet, non andavano a cercare, non era facile capire insomma in tanti caddero nello scherzo, talmente tanti che la Warner, certo, era talmente tanta la richiesta nei negozi di dischi di questo album inesistente che la Warner, tramite la Reprise, tramite una sua sottoetichetta, diciamo così, anche importante come la Reprise Records, contatta Green Marcus e architettano, cioè fanno fare lo scherzo un passo in avanti, però insomma che poi insomma c'è da discutere sulla eticità dello scherzo, diciamo così, perché la Reprise, la Warner mette $15,000, che all'epoca non era pochissimo, ingaggia un gruppo di studenti della un gruppo di musicisti della Berkeley, dell'Università Californiana, e come Canavaccio gli dà la recensione di Green Marcus e dice: costruite un disco partendo da queste, dalle indicazioni di questa recensione inventata di Green Marcus. Il disco viene registrato, viene dato alle stampe e addirittura vende in poco tempo più di 100.000 copie, poi non è stato più stampato. Adesso quello che mi chiedo io, che ci chiediamo con Ale, l'incasso di queste 100.000 copie vendute speriamo siano andate in beneficenza o qualcosa del genere, perché comunque l'eticità appunto è un po' diciamo al limite di questa operazione. Comunque certamente molto divertente, noi eravamo combattuto se farvela ascoltare o no, poi la storia è talmente bella e talmente esemplare che abbiamo deciso di sì. Quindi Green Marcus ne ha parlato come un disco di una bruttezza allucinante e insostenibile, forse è stato un po' troppo duro. Comunque questo è un piccolo brano strumentale, c'è solo un pezzo, c'è solo una frase, il titolo della canzone, poi Copai, che lo dice una voce che sembra un po' scimmiottare, imitare Dylan, almeno questa è stata la nostra impressione. Comunque dura 2 minuti e 15 e ce la potete fare. La canzone si intitola Copai e loro sono The Masked Marauders. Masked Marauders, che entrano nell'archivio di Nota Cosa Città, non c'è ancora Marvin Gaye, ma ci infatti, sono Masked Marauders. Facciamoci comunque delle domande. A proposito di questa canzone, ho pronunciato male il titolo, è Cow Pie. Cow come vacca, Pai come torta, quindi la torta di vacca probabilmente è una metafora non troppo, insomma, sottile su. E quindi sì, e che poi sta pure bene nello scherzo, diciamo, quindi ci piace immaginare che sia questo il motivo. Vi ricordo questa è Nota Cosa Città, vi ricordo stiamo parlando di scherzi perché è il primo aprile. ridere, scherzi, burle, anche fake news, però adesso c'è da essere anche un attimino seri, perché alle 5 di mattina del 9 novembre del 1966, dopo una furibonda lite con i suoi compagni di band, Paul McCartney esce dagli studi di registrazione, sale sulla sua Austin e poco dopo ebbe un incidente mortale. Adesso non vi dico tutti i dettagli. Quando seppero dell'incidente, Lennon e Brian Epstein decisero di non far trapelare la notizia per non mettere in pericolo, diciamo, il successo della band, e decisero di sostituire Paul con un sosia di nome William Stuart Campbell, anche conosciuto poi come Billy Shears. Questa notizia trapelò per la prima volta il 17 settembre del 1969. Non l'ha data Red Ronnie la notizia? Non l'ha data Red Ronnie. Tre anni dopo apparì su un giornale locale dell'Iowa in un articolo scritto da tale Tim Harper, che racconta di aver ottenuto queste informazioni da un suo amico musicista che a sua volta le aveva sapute durante una vacanza in California. Poi però la diffusione su larga scala della notizia, e per larga scala intendo il mondo intero, prese piede qualche settimana più tardi. Era il 12 ottobre 1969, durante una trasmissione radiofonica di una radio del Michigan. Il DJ si chiamava Russ Gibbs. Ora apro parentesi, personaggio famoso poi per questa storia, ma con un ruolo di assoluto protagonista nella diffusione della musica a Detroit. Lui gestiva dei locali, faceva un lavoro di promozione molto simile a quello di Bill Graham, che lo aveva ispirato con i suoi Fillmore. E DJ Russ Gibb, dicevo, ricevette una telefonata in diretta da un signore che si chiamava Tom, che gli dice: guarda, devo dare questa notizia, Paul McCartney è morto 3 anni fa, è stato sostituito da un sosia. Russ, se non ci credi, prendi il White Album dei Beatles, metti la penultima traccia, si chiama Revolution 9, è questa che ci stiamo ascoltando in sottofondo, suonala al contrario. Number 9 al contrario sembrava proprio dire "Turn me on, dead man". E inoltre, gli dice sempre Tom, 9 è la somma delle lettere che compongono il cognome McCartney. 9 è anche il giorno della presunta morte, che era appunto il 9 novembre. E tra i rumori contenuti in Revolution 9 c'è una frenata di automobile, e sempre ascoltando il disco al contrario si sente una voce che grida "Get me out, tiratemi fuori", presumibilmente di Paul McCartney, e poi un coro che canta "Paul is dead", e una voce che grida "I'm died", sempre Paul McCartney. Gibb mette il brano in onda e si scatena assolutamente l'inferno. L'emittente inizia a ricevere una valanga di telefonate, molti ascoltatori e ascoltatrici chiamano dando i loro presunti indizi su brani e testi delle canzoni dei Beatles, altre persone si recarono in radio per chiedere delucidazioni, il proprietario dell'emittente chiamò anche lui e disse: Gibb, io non so cosa stai facendo, ma continua a farlo. E riuscirono anche a contattare i giorni seguenti Eric Clapton, addirittura gli dissero: Eric, ma tu ne sai qualcosa di questa storia? E Eric Clapton dice: no, ma voi siete pazzi. Però lo sai che adesso che mi ci fai pensare è un po' di tempo che non sento Paul McCartney. E la cosa andò avanti per diversi giorni. Ad ascoltare il tutto c'era Fred Labor, che era un critico d'arte che lavorava per il Michigan Daily, che utilizzò questi indizi, inventò il nome del sosia di McCartney, inventò poi altri indizi, e il 14 ottobre fece uscire un articolone dal titolo "McCartney dead" sul giornale. E quindi uno scherzo, una fake news che ebbe però un impatto decisamente inaspettato, che nel corso degli anni ha dato vita a teorie complottistiche di qualunque tipo. Ora è impossibile adesso qui fare una lista, ma se avete voglia di divertirvi in rete ne trovate a bizzeffe, teorie che riguardano sia i presunti indizi visivi nascosti sulle copertine o nei booklet che vanno da Sgt. Pepper, Abbey Road, Magical Mystery Tour, fino ovviamente a quelle contenute nelle canzoni, quindi strofe, brani appunto riprodotti al contrario, eccetera eccetera. Poi ci sono state analisi del viso con le misure dell'orecchio che non corrisponderebbero tra le foto prima e dopo il 66. Insomma, c'è davvero da divertirsi se avete voglia. In più aggiungeteci che chi credeva in questa teoria dice: ma infatti fateci caso, i Beatles dal 66 in poi non hanno più fatto tournée, questo perché il sosia sembra fosse un po' più alto o un po' più basso, quindi dal vivo si sarebbe vista la differenza. Ora noi abbiamo scelta una di queste canzoni, The Magical Mystery Tour, nella cui copertina c'è la scritta Beatles che è tutta stellata, che se la guardate allo specchio sembra comporre un numero di telefono. Secondo i sostenitori della tesi della morte, nel 1967, se si chiamava questo numero di telefono, rispondeva un'agenzia funebre, oppure secondo altri dicono che rispondeva una voce che diceva ti stai avvicinando alla verità. Il brano che abbiamo scelto è I'm the Walrus, io sono il tricheco, perché secondo la mitologia eschimese il simbolo, il tricheco era il simbolo di morte. Lennon qui canta io sono il tricheco, è uno dei Beatles in copertina, è vestito proprio da tricheco, sembrerebbe apparentemente John Lennon, ma l'anno successivo, nel brano Glass Onion sul White Album, c'è una strofa in cui Lennon canta ed ecco un altro indizio per voi, il tricheco era Paul. Ora, la canzone sarebbe il racconto di John Lennon della morte di Paul McCartney. L'accompagnamento iniziale addirittura ha uno schema ripetuto di note che rappresenterebbero la sirena bitonale delle ambulanze dell'epoca, e alcune parti del testo testimonierebbero la cospirazione e il coinvolgimento della band. Poi negli anni McCartney e gli altri Beatles si sono divertiti a mettere messaggi nei loro testi o nelle copertine degli album. Per esempio c'è un live di Paul McCartney che si chiama Paul Is Alive, in cui lui scimmiotta la famosa copertina di Abbey Road, anche quella incriminata, dove lui cammina scalzo, dove c'è il maggiolino con la targa, eccetera eccetera. È di oggi una notizia, molto probabilmente sarà un pesce d'aprile, in cui Paul McCartney dice che sta rimettendo le mani su Sgt. Pepper, facendo dei nuovi brani dove parteciperà anche Ringo Starr. Comunque, salutiamo Ferruccio che ci è caduto. Comunque, il tutto si chiama Paul Is Dead, questa cosa la trovate abbreviata PID, e appunto, ripeto, trovate tantissime notizie su internet. Comunque, questa è I'm the Walrus e loro sono naturalmente The Beatles. my mistress stands at the retirement. Is he dead? Sit you down, father. Rest you. And the Walrus, the Beatles. E restiamo in zona Beatles perché il prossimo artista. Vero. Il prossimo artista in scaletta e soprattutto il prossimo autore di uno scherzo, secondo noi bellissimo, è George Harrison. Allora, l'album che mettiamo, insomma, da cui prendiamo la canzone è presa da quest'album per un motivo specifico che vi racconterò. L'album, dicevo, è All Things Must Pass, il triplo album di George Harrison, uscito nel novembre del 1970, album prodotto negli Abbey Road Studios e prodotto da un pezzo da 90 come Phil Spector. Dell'album suonano tantissimi, come potete immaginare, tantissimi grandi musicisti, tantissimi amici di George Harrison. Tra questi c'è Eric Clapton, non l'abbiamo nominato prima, c'è Ginger Baker, c'è Ringo Starr, c'è Billy Preston, c'è Peter Frampton, e tra questi ci sarebbe potuto essere anche Phil Collins. In realtà Phil Collins all'epoca non era nessuno perché aveva appena 19 anni. Ah, perché dopo è stato qualcuno? Dopo è diventato, insomma, il batterista di un gruppo noto, quantomeno anche un batterista bravo dal punto di vista tecnico. Si scherza. Un artista che magari non amiamo, quantomeno io non amo particolarmente, in questo caso oggetto di uno scherzo. Però dicevo, Phil Collins all'epoca a 19 anni non è ancora, è un batterista probabilmente già bravo, ma non è ancora nessuno, non è un nome conosciuto nel mondo della musica. È un pomeriggio qualsiasi, lui lo racconta nella sua autobiografia, Collins, in maggio del 1970, lui appunto è a casa sua, sta per sbragarsi sul divano, racconta, a vedere un po' di TV e a mangiare un po' di schifezze, quando squilla al telefono un suo amico che è riuscito a coinvolgerlo. Dice: vieni con me, presente di Aiebiro Studios, cercano un musicista, in questo caso però gli chiedono di suonare le congas. Lui non è un percussionista, in realtà le sa suonare, però diciamo lui è un batterista. Però dice, quando sente il nome Beer Road Studios, per gli ovvi motivi, per il fatto che erano gli studi degli Scarafaggi, insomma, quindi lui appunto lo vedi come un segno del destino, corre, non sa neanche per chi avrebbe dovuto suonare. Fatto sta che lui registra le sue parti di congas in un pezzo di cui ancora non conosce il titolo. Il pezzo prenderà il nome di Art of Dying. Lui suona le percussioni, racconta che era talmente emozionato e talmente voleva far bene in uno strumento che non era proprio il suo, che lui si rovina le mani per suonare le congas. Comunque fa il suo lavoro, esce e è felicissimo. Scopre successivamente che quando gli arriva l'assegno da parte degli Abbey Road Studios, gli arrivano 15 sterline di paga. Insomma, lui in quel momento scopre che l'artista per cui ha suonato è George Harrison, quindi non vede l'ora, cioè aspetta impaziente l'uscita dell'album. L'album esce il 18 novembre, se non vado errato, dello stesso anno. Immediatamente va a comprare l'album e nei crediti non trova il suo nome, quindi lui cerca nella canzone, cerca più volte, insomma il suo nome non c'è, mette il vinile sul piatto e si accorge che nella canzone Art of Dying non c'è nessuna conga, cioè che la sua parte è stata tagliata. E questo lui racconta resterà sempre un suo grande rimpianto, cioè lui da allora ha cominciato a chiedersi perché è stata tagliata la mia parte, ho suonato così male e qualcos'altro il motivo. Comunque nel frattempo lui nascono i Genesis e lui diventa un personaggio famoso, un musicista di fama internazionale. Nel 1982 ha finalmente l'occasione degli studi di registrazione, incrocia George Harrison, insomma si va a presentare, George Harrison comunque lo conosce, Phil Collins. Dopo poco tempo lui, Phil Collins, gli dice: posso sapere perché? Gli chiede conto del fatto che, cioè gli dice: io ho suonato le congas, avevo appena 19 anni, nel tuo album All Things Must Pass, perché è stata tagliata quella parte. Harrison dice: non mi ricordo assolutamente di te, ma soprattutto non mi ricordo quasi niente del 1970, non mi ricordo delle congas e tantomeno mi ricordo perché sono state tagliate. Insomma, non gli dà una risposta, Phil Collins non si arrende. Passano tanti anni, la seconda volta che incontra George Harrison è nel 1999, quindi 17 anni dopo lo incontra alla festa di Jackie Stewart, che era una leggenda dell'automobilismo, amico comune, insomma amico di entrambi invitati alla festa. Phil Collins, io immagino non George sarebbe. Harrison si riavvicina al buon George Harrison e gli richiede un'altra volta, gli dice la stessa storia, dice: non ti è venuto in mente perché? E lui conferma quello che gli aveva detto già la volta precedente, che lui non ricorda assolutamente niente del 70. Phil Collins un po' comincia a farci pace con la cosa, dice: vabbè, ma un Beatles che sa quante cose ha da ricordare, vabbè, comunque sia, un po' comincia a far pace con questa sì, realtà, col fatto che non saprà mai la verità. Evidentemente George Harrison, questo non sappiamo purtroppo la versione di Harrison di questo, Harrison probabilmente si è divertito a vedere Phil Collins così ansioso di queste parti di congas in suo pezzo di un album triplo, per carità, una bellissima canzone, ma insomma, e probabilmente, no probabilmente, coinvolge un giornalista sicuramente, perché poco dopo questo incontro Phil Collins viene intervistato da un giornalista che non conosceva, e tra le domande questo giornalista gli chiede: ma è vero che tu hai suonato, a proposito, tu hai suonato nell'album di George Harrison, ma poi la tua parte è sparita? Cioè, insomma, tira fuori l'argomento Phil Collins e dice quello, insomma, e dice: sì, è vero, non so perché la mia parte è stata tagliata, probabilmente non lo saprò mai. E lui dice: ma lo sai che George sta lavorando all'edizione deluxe del 30° anniversario dell'album? Siamo nel 99, nel 2000 avrebbe compiuto 30 anni l'album, e adesso io comunque lo sento, gli chiedo di mettere, so che sta cercando, è un mio amico, so che sta cercando, sta rimettendo insieme tutti i master, tutti i nastri, probabilmente ritroverà anche quella di Art of Dying con la tua parte di congas. E sì, ma davvero puoi farlo? Ma in quanto tempo pensi di poterlo sapere? Così, insomma, Phil Collins si scopre immediatamente ansioso. Pochi giorni dopo arriva un pacco a casa Collins in cui c'è un nastro con una breve biglietto di George Harrison, gli dice: spero che qui troverai quello che stai cercando, con affetto, George. Phil Collins è entusiasta, mette il nastro e parte la canzone, si sente un fruscio, si sente la batteria che parte, e poi entrano delle congas e lui dice: Cristo, non ero magari un grande percussionista, ma non pensavo di aver suonato così male. Cioè, immediatamente capisce che è una cosa oscena, e il nastro finisce con George che dice: Phil, parlando, no, Phil Collins a Phil Spector, e facciamolo un'altra volta, ma senza quel ragazzo che suona le congas. Quindi lui lì capisce che non scherza, insomma, questa è la storia, è andata un po' lunga, ma meritava. Noi ci sentiamo ovviamente Art of Dying senza le congas di Phil Collins, lui e George Harrison. Art of Dying per George Harrison. E tra l'altro, proprio su questo disco, visto che abbiamo parlato prima di... l'ho dimenticato. Vai, lo vuoi dire tu? No, dillo tu. Come ho dimenticato di dire che George Harrison non abbiamo avuto modo di sapere poi la sua versione dello scherzo, perché poi George Harrison morirà nel 2001, quindi muore l'anno dopo, pochi mesi dopo questo scherzo a magnifico Phil Collins. No, ti racconta tu. No, che all'interno di All Things Must Pass c'è un piccolo brano, credo che duri circa un minuto, che si chiama It's Johnny Birthday, che se il disco originale veniva suonato al contrario, una voce diceva he never wore his shoes, we all know he was dead, non ha mai indossato le scarpe, sappiamo tutti che era morto. È un evidente richiamo alla copertina di Abbey Road, dove appunto McCartney appare proprio scalzo. E se fosse vero, non è vero, che Paul McCartney sta lavorando alla nuova versione di Abbey Road, rendendola più moderna, magari nella copertina indossa... di Abbey Road, di Sgt. Pepper's. Ah, è vero. Sì, di Sgt. Pepper's. Allora, andiamo avanti. Il prossimo scherzo non è un pesce d'aprile, perché è stato fatto a novembre 2024, ma ne ha tutte le caratteristiche. È stato fatto da un account parodia, diciamo che gioca un po' sull'essersi dato un nome simile ad altri account che si occupano di musica e cultura pop in generale. Questo sito si chiama Drop Pop, con tanto di spunta blu su X, e che richiama naturalmente Pop Crave o Pop Base, account che hanno quasi 2 milioni di follower. Questi account parodia capita che spesso rilascino fake news, e capita che alcune di queste fake news inizino a circolare più di altre e vengano prese per vere. È quello che è successo per esempio a Justin Timberlake, quando fu scritto da uno di questi account parodia, questo si chiamava Pooh Crave, che fu fermato alla guida sotto l'effetto di droghe e poi arrestato. Ma lo scherzo di cui noi ci occupiamo è uno di quelli che è decisamente riuscito, perché ha avuto un'interazione di oltre 20 milioni di account. La storia è più o meno questa: dopo la vittoria elettorale di Trump, la cantante e quattro volte vincitrice di Grammy Lizzo, che era una sostenitrice di Kamala Harris, ha abbandonato X o Twitter, insomma, e che come sapete ora è di proprietà di Elon Musk, che ha avuto un ruolo fondamentale nella campagna elettorale di Trump. Quindi su Drop Pop, questo account parodia, è stato pubblicizzato un post con un finto screenshot di una presunta lite social tra Lizzo e la cantante Lana Del Rey. E in questo finto screenshot Lizzo avrebbe detto a Lana Del Rey: mi piacerebbe vederti ancora in classifica, e la Del Rey avrebbe risposto: a me piacerebbe vederti su un tapirulan, in riferimento al peso di Lizzo. Lizzo a questo punto avrebbe risposto: spero che un alligatore ti mangi il culo. E qui il riferimento era al marito di Lana Del Rey, che organizza tour per vedere gli alligatori. E poi un botte risposta su questi toni, insomma, anche si andava anche un po' sul pesante. Il post, come detto, ha avuto un successo che probabilmente gli autori non immaginavano, tanto che sono stati costretti anche a cancellarlo, a precisare che l'account era un account satirico e che tutto quello che pubblica è frutto di fantasia. Però noi con questa occasione ci andiamo ad ascoltare Lizzo, che credo non l'abbiamo anche lei mai passata a Note Cose Città. Ce l'ascoltiamo dal suo album del 2022, questa è Cats I Love You. What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some mo. Trying to open up a little mo. Sorry if my heart a little slow. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But my hair pressed again. I would do it for you, all my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that I didn't care. I thought I was loving bad. But baby, oh baby, Lizzo, Cazzo, I Love You. Noi siamo agli ultimi due brani in scaletta, vediamo se riusciamo a fare uno scherzo a Simiglia e finire puntuali. Non credo che ci riusciremo. Abbiamo lasciato in fondo la scaletta, c'è una tipologia, se cercate scherzi nel rock, la ricerca è più facile, cioè, trovate tantissimi episodi di scherzi tra band quando sono in tournée tra di loro, ce ne sono tantissimi di aneddoti, alcuni molto pesanti, per esempio c'è Mike Patton, i Faith No More, che stanno in tournée con i Guns Roses, e almeno in Italia vennero anche con i Faith No More, era il 1992, non era nato un grande amore tra i Faith No More e i Guns Roses, o quantomeno, quantomeno non era nato un grande amore tra Mike Patton e Axl Rose. E quindi Mike Patton racconta che di notte si è introdotto, è riuscito a introdursi nel bus di Axl Rose nel pulmino, e avrebbe defecato all'interno di un succo d'arancia e gliel'avrebbe messo in frigo. Non sappiamo la reazione di Axl Rose. Ci sono i Kiss in tournée con i Rush, un gruppo canadese, che vengono bullizzati dei Kiss, anche però nasce anche un'amicizia in maniera divertente, mai troppo pesante. Forse spesso molto pesante era Keith Moon, il grande, ne ha fatte mille, grande batterista di Yui, che era insomma famoso per gli scherzi, ne ha fatto di tanti e pesanti, è arrivato a mettere dei petardi in televisione durante una registrazione in playback di My Generation, e quando esplodono i petardi è talmente forte che un artista che era lì, adesso non ricordo, della conduttrice, sviene, insomma. Si è buttato una macchina, loro si ritrovano a terra. Beh, insomma, ne ha fatti tantissimi. All'interno di questi scherzi, quello che abbiamo scelto per questa puntata è quello che fanno i Foo Fighters ai Red Hot Chili Peppers, sono in tournée insieme il 90, nella tournée di Californication dei Red Hot Chili Peppers nel 99, e si portano in tournée i Foo Fighters e a volte sono tempo Pilots, a volte stanno insieme. Comunque nasce un'amicizia tra le band, soprattutto nasce un'amicizia tra i batteristi dei Foo Fighters e Taylor Hawkins, purtroppo scomparso, e il batterista dei Red Hot, cioè Taylor, nasce una bella amicizia. E i Red Hot Chili Peppers cominciano a prendere di mira presto i Foo Fighters, ma loro si limitavano a lanciare, racconta Taylor, i cioccolatini e i popcorn a loro mentre suonavano, in particolare al batterista. Però i Foo Fighters insomma vogliono vendicarsi e forse esagerano un po'. C'è il video che lo trovate facilmente su YouTube. Insomma, durante una delle ultime date del tour, mentre i Red Hot Chili Peppers suonano una chicca poi della loro scaletta, perché Me and My Friends è uno dei primissimi pezzi dei Red Hot Chili Peppers del 1987, mentre suonano tirano centinaia e centinaia di palline da ping pong, li tirano dai lati, le fanno cadere dall'alto, e soprattutto cominciano a tirare a rovesciare sul batterista mentre suona, su Chet Taylor rovescia Hawkins 200 kg di spaghetti caldi. Ripeto, c'è il video, è divertente. Riescono a suonare, ovviamente fanno un sacco di errori, ridono, però il batterista riesce a suonare fino alla fine e scappa via appena dall'ultimo colpo di rullante, insomma. E cercatelo, perché merita, veramente divertente. Comunque noi ci ascoltiamo la canzone, il teatro, diciamo così, di questo scherzo dei Foo Fighters. Loro sono i Red Hot Chili Peppers e questa è Me and My Friends. Me. song rehearsed. It's about my man and his name is Hillel. For who by love is no brother sacred. Take it, Huckleberry, Slim Bar, take it. Hai fatto uno scherzo che sbagli nome. Ho fatto la grazia, in realtà ho sbagliato il nome del batterista dei Red Hot, Chad Smith. Io ho detto Chad Taylor, ho fatto la grazia tra Chad Smith e Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters. Erano loro due, tra loro è nata l'amicizia, tra loro erano il motore degli scherzi, ecco. Madonna, quanto crasico. Quanto crasico, sì. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata a scherzi, burle, fake news, ma anche a chiudere la puntata, anche truffe, perché nessuno più di lui, probabilmente, è giusto forse chiudere così, ha fatto uno scherzo più grande all'industria musicale, scherzo che è diventato uno delle più importanti, comunque al di là di tutto, importanti e seminali band della storia del rock. Lui si presentava come l'architetto della grande truffa del rock and roll, ha manipolato l'industria musicale per promuovere il caos e l'anarchia, accumulando profitti dalle controversie generate. Questa è anche più o meno la narrativa al centro del film del 1980, La grande truffa del rock and roll, The Great Rock and Roll Swindle, diretto da Julian Temple, che offre una versione romanzata della storia dei Sex Pistols da un punto di vista, ovviamente, perché stiamo parlando di lui, Mr. Malcolm McLaren. I Sex Pistols, diceva, furono creati come un esperimento per smascherare le ipocrisie dell'industria musicale. La sua strategia includeva la firma di contratti con diverse etichette discografiche, seguiti poi da comportamenti oltraggiosi che portavano alla rescissione dei contratti stessi, permettendo a McLaren di incassare indennizzi senza che la band di fatto producesse effettivamente musica per quelle etichette. Il prossimo 8 aprile saranno 25 anni dalla sua morte, avvenuta a causa di un tumore a 64 anni. Malcolm McLaren nacque il 22 gennaio del 46 a Londra. Nel corso degli anni 60 si iscrisse a varie scuole d'arte, venendo espulso da molte di esse prima di lasciare definitivamente gli studi nel 1971. In questo periodo inizia a disegnare vestiti, aprì la boutique di culto Let It Rock a King's Road a Londra, ovviamente insieme alla stilista Vivian Westwood, all'epoca sua compagna. Promuoverà poi il compimento di azioni provocatorie per attuare un cambiamento radicale della società. McLaren ne adottò in seguito le tecniche per favorire l'ascesa di alcune band. Risale al 72 il suo viaggio a New York, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata dedicata, quando abbiamo parlato anche della morte di uno dei New York Dolls in occasione di una fiera di abbigliamento. Incontrò i New York Dolls, per loro ideò look provocatori che richiamavano all'Unione Sovietica. Poi, quando tornò a Londra, cambiò il nome della boutique da Let It Rock divenne Sex, e qui cominciò a promuovere e a vendere abbigliamento sadomaso e magliette strappate. In questo negozio conobbe i suoi futuri Sex Pistols. Il negozio divenne così uno dei fulcri della scena punk inglese. Il successo arriva nel 77, quando il singolo dei Sex Pistols, God Save the Queen, era stato messo al bando dalla BBC, svetta però nelle classifiche durante il Giubileo d'Argento, ovvero il 25esimo anniversario dell'incoronazione della regina Elisabetta. Per l'occasione McLaren aveva organizzato uno bello scherzo alla regina, un concerto dove i Sex Pistols avrebbero dovuto esibirsi su un'imbarcazione sul Tamigi davanti al Palazzo del Parlamento. La cosa poi, come sapete, non andò a buon fine, perché intervenne la polizia a bloccare tutto e ad arrestare Malcolm. Il risultato è che sia lui che i Sex Pistols ne guadagnarono una grande e fruttuosa pubblicità. Poi nell'83, non contento di prendersi in giro di tutto e tutti, riuscì a farsi dare $100,000 per Dacca Rock senza mai aver suonato o cantato una sola nota, insomma tutto un grande sberleffo, una grande truffa. E noi proprio dalla colonna sonora di The Great Rock and Roll Swindle ci andiamo ad ascoltare questo medley divertentissimo dei quattro singoli dei Sex Pistols rivisitati in chiave disco, intitolato Black Arabs, di una band che si chiama appunto Black Arabs, di cui anche il buon Seymour Reynolds qualche anno fa su una delle sue pagine social si chiedeva: ma sapete se questi Black Arabs hanno fatto qualcos'altro, perché io non so minimamente chi sono? E tutto questo probabilmente parte integrante di quell'imbroglio che ci ha fatto Malcolm McLaren. Grazie a chi è stato all'ascolto, vi ricordiamo di sostenere sempre Radio Onda Rossa per permetterci l'acquisto del nostro, che è il fusore nucleare, mini reattore nucleare, del nostro mini reattore nucleare. Dopo di noi c'è Similia, noi ci sentiamo martedì prossimo, chiudiamo un ciclo iniziato qualche puntata fa dedicato a Chicago, ci andremo a occupare della scena, lo so che tu l'odi, però per semplificare, la scena post rock. Ma non di Chicago. L'odio. Ma sì, l'odi. No. E chiudiamo con i Black Arabs. Il brano che ci ascoltiamo è Black Arabs, in onore a Malcolm McLaren e alla sua truffa. Restate all'ascolto di Similia e di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti.